Un benvenuto a tutte le signore, tutti i signori, alla consigliera provinciale Paclutz e soprattutto ai nostri due ospiti, il professor Franco Cardini e il dottor Giancarlo Riccio. Questa iniziativa fa parte di una serie di iniziative che questa biblioteca organizza settimanalmente, il lunedì e il giovedì preferibilmente, ma anche in altri momenti della settimana, e sono tutte tese a favorire l'incontro delle persone con i libri, con la lettura, con i dibattiti. Cerchiamo sempre di incuriosire le persone, di spingerle poi ad approfondire i temi, gli argomenti, usando anche i libri che questa biblioteca raccoglie, rinnova costantemente. Quelli che vedete qui sono solo un quarto del nostro patrimonio, in quanto tre quarti li abbiamo in un magazzino che è accessibile e che frequentiamo quotidianamente. Insomma, in tutto sono 70.000 volumi al momento catalogati. Lo dico perché si possono scegliere i titoli dal nostro sito, quindi chi vuole, che avesse piacere e la curiosità di vedere cosa, su cosa ci concentriamo, ecco, può anche vedere il nostro sito www.bpi.claudioaugusta.it. Gli indirizzi ci sono anche sugli opuscoli che avete sulla sedia. Lasciamo sempre un modulo di iscrizione per, così, per chiedervi anche di iscrivervi e di avere così le notizie aggiornate su tutte le nostre iniziative. E questa sera siamo particolarmente contenti di avere appunto come ospiti il professor Cardini, che vi presento brevemente. È docente a un istituto post-universitario, SUM, di Scienze Umane a Firenze. Il dottor Giancarlo Riccio invece è giornalista del Corriere dell'Alto Adige e del Trentino, nonché docente di storia del giornalismo a Berlino. Con questa iniziativa vogliamo anche concentrarci sull'ultimo libro, che è In Turco a Vienna, e così approfondire tutta una serie di tematiche che riguardano anche i tempi moderni, quindi non solo il Medioevo, ma che si ripropongono in chiavi diverse in questo periodo della nostra storia. Vi porto i saluti anche dall'assessore Tomasini e vi anticipo che questa stessa iniziativa verrà riproposta domani alla Biblioteca Civica di Merano, con cui stiamo iniziando a fare delle collaborazioni, delle iniziative sempre tese a far conoscere il mondo della lettura, i libri e soprattutto a spronare le persone a crearsi un proprio percorso e una propria libera opinione. Grazie e buona serata a tutti. Schönen Abend, meine Damen und Herren, willkommen an alle, buonasera a tutti, grazie all'autoressa Trevisan. L'altro giorno la Süddeutsche Zeitung, nei giorni della Buchmesse della Fiera del Libro di Berlino, registrava che di libri se ne comprano di meno e che comunque non sono un bene primario. Quindi il ruolo di una biblioteca pubblica come questa diventa sempre più importante e strategico. Credo che Franco Cardini sia d'accordo, e dunque siamo molto lieti di essere qui. Io devo ringraziare Franco Cardini in modo speciale perché ha aderito all'invito che la dottoressa Trevisan e il suo staff molto efficiente gli ha rivolto un po' di giorni fa, e anche perché, lo dico con l'autorizzazione della padrona di casa, è reduce da un'altra conferenza dedicata alla storia della mela all'ANA, in un'iniziativa che curo io insieme con la collega Lorena Monforti e che domani prevede nel pomeriggio alle 5 al Museo della Mela di Lana una lettura di Alessandro Banda, che è di casa qui e che ha scritto per questa iniziativa all'ANA un racconto inedito bellissimo, e quindi con il permesso della Teresa Trevisan mi permetto di farvi di rivolgervi questo invito. Per Franco Cardini è il secondo intervento in un'unica giornata, e quindi lo ringrazio anche di questo. L'illustre relatore e il modesto moderatore si daranno del tu, non per vezzo, ma si conoscono e si sopportano accettabilmente da 18 anni, hanno scritto un libro insieme, hanno fatto molta Radio 3 nazionale insieme. Siamo ingrassati insieme, anche perché scrivere i libri e non andare a cena fuori dopo fa malissimo. La serata, così come l'abbiamo pensata con la dottoressa Trevisani, i suoi collaboratori e naturalmente il suo protagonista che è Cardini, avrà come primo epicentro naturalmente questo ultimo libro, Il Turco a Vienna, che è un libro che insieme ad altre cose è stato pensato, redatto, scritto e riscritto, Litigi con Peppe La Terza e con altri anche di grande affetto, con l'editore La Terza, un libro davvero importante, come sicuramente molti di voi sanno già, la storia di un assedio, quello a Vienna del luglio-settembre del 1683, e di questo parleremo con Franco Cardini nella prima parte di questa serata. Nella seconda parte l'idea è quella di allargare il dibattito ai tempi nostri. Cardini è un querdenker, come chi lo conosce un po' meglio sa bene, è un irregolare ed è personalmente ritengo che sia una fortuna che leggerlo e persino invitarlo a bere gli aperitivi come abbiamo fatto qualche minuto fa. Battute a parte, si tratta di uno studioso che ha attirato l'attenzione della leadership di questa biblioteca e poi dei colleghi della signora Trevisan a Merano proprio per questo, perché è un rompiscatole, non è un paludato professore, per quanto abbia un cursus honorum molto prestigioso, è un rompiscatole, non esita a dire quello che pensa. Lo ha fatto sempre nei suoi libri e credo che lo farà a maggior ragione durante questa serata. Io ringrazio tutti e per dovere di cavalleria, se me lo permettete, vorrei anch'io, come ha fatto la dottoressa Trevisan, salutare la dottoressa Klotz, che io ogni tanto ho il piacere di intervistare per il Corriere dell'Alto Adige e che, devo dire, le mie opinioni non contano nulla, ma che mi racconta sempre con molta chiarezza, prevalentemente in italiano, con qualche cosa in tedesco a cui riesco ad arrivare anch'io, che cosa pensa, e non tutti i dirigenti politici di qualunque provenienza, di qualunque credo, sono altrettanto efficaci. Allora, l'assedio, il turco a Vienna. L'assedio è un fatto militare, ovviamente, perché c'è chi assedia e chi è assediato. Certamente, sì. Cominciamo con la palizza. Come in altre più piacevoli situazioni bisogna essere almeno in due. È sconsigliabilissimo essere almeno in due. È un fatto diplomatico, è un fatto politico, è un fatto religioso, per quanto sul religioso e sul culturale avrai molte cose da dire. Questo assedio è... Ma sì, usiamo per l'unica volta di tutta la serata un parolone. Questo è un paradigma della storia dell'Europa, della storia del mondo, o no? È una specie di metafora di tante cose? C'è chi, come scrivi nel libro, a più riprese si è augurato che vincessero gli uni o gli altri, perché sia i viennesi che i turchi, generalizziamo, non vedevano l'ora che uno perdesse e l'altro vincesse per allearsi con il vincitore, molto clarianamente. Quindi che cosa è questo assedio per la storia dell'Europa e non solo europea dal 1600 in poi, secondo l'autore di Il Turco a Vienna? Bene. Beh, allora, innanzitutto buonasera a tutti, vi risparmio il mio tedesco, perché insomma, avendo scritto un libro sull'assedio di Vienna, che è stato scritto evidentemente in gran parte a Vienna, ma non solo a Vienna, molto anche a Roma, a Venezia, eccetera, e altrove, perfino, ahimè, a Varsavia, fortunatamente anche un pochino a Istanbul, ma Istanbul ha avuto la strada abbastanza spianata, perché i documenti a Vienna sono, ahimè, quando non sono in latino, sono in tedesco. Io posso leggere il tedesco, passato alcuni mesi della mia vita, molti mesi della mia vita, in università tedesca, mi arrangio, insomma, anche se quando torno in paesi germanofoni, le prime settimane sono sempre molto arrugginito, però posso almeno leggere abbastanza correntemente. Il fatto è che molti documenti a Vienna evidentemente sono in italiano, la corte di Vienna si parlava ordinariamente quasi più italiano che tedesco, molti sono in latino, moltissimi sono in francese, quindi nel beato 6-700 l'Europa era un dato di fatto anche da questo punto di vista, insomma, almeno a un certo livello le difficoltà linguistiche erano infinitamente, sembra strano, sembra paradossale, ma erano infinitamente inferiori di quanto non siano oggi, almeno da un certo livello in su, ça va sans dire. Ma poi sono particolarmente contento, lasciatemelo dire, perché io amo molto questo paese, in generale l'Alto Adige su Tirol, Innsbruck è la prima città non italiana che io ho visto in vita mia, durante una visita scolastica, ahimè, Mémoire d'Outre Tombe, nel 1950-51-52. C'era già Innsbruck? C'ero già anch'io, quello che mi preoccupa di Innsbruck, no, ma essendo del 1940, mi ricordo di aver visto, e me ne ricordo perfettamente, i soldati russi a Innsbruck, con tanto di callback, di stivali, di tutto il resto, i parafernalia più ortodossamente stalinisti. Mi ricordo anche di averne avuto una buona impressione. Sia nel 51, forse nel 45 avrei avuto l'impressione di persone più maleducate, ma nel 51 ricordo di aver avuto l'impressione di persone corrette, gentili, cortesi, allegre, non mi fecero paura. Insomma, io sono un figlio del tempo della divisione in due dell'Europa, della cortina di ferro, i buoni di qua, i cattivi di là, quindi un ragazzino di 11 anni, 12 anni, avrebbe potuto avere un'altra impressione, no, non ebbi questa impressione, solamente un'impressione soggettiva, non vuol dire assolutamente niente. Grazie per l'ospitalità, con la signora Trevisan sono un vecchio amico di email ormai, quindi, e purtroppo l'email non ha il video, quindi è stata una gradita sorpresa vederla in persona, ma conserverò le sue missive. E poi sono molto contento perché ho conosciuto la signora Klotz, per la quale che seguo da anni, per la quale ho molto interesse e anche molta ammirazione, perché come tante altre persone in Europa mi pare che al di là delle sue posizioni politiche, sulle quali non entro perché questa non è la sede, perché io sono incompetente e via discorrendo, mi sembra che chi lavora per valorizzare le diversità regionali e anche quindi i diritti alla libertà di esprimerle, faccia un buon servizio all'Europa. L'Europa è fatta, come tutte le cose belle del mondo, sulle diversità. Le diversità sono delle ricchezze. Io ho incontrato catalanisti, ho incontrato autonomisti scozzesi, irlandesi, baschi evidentemente, austani, savoiardi, osseti, o alani osseti, che da un po' di tempo stanno lottando per la loro autonomia nei confronti del neo governo georgiano, che appena nato si è comportato come spesso fanno i governi nuovi dei piccoli paesi, in una maniera ferocissima, durissima, che se fossero una grande potenza farebbe pensare molto, farebbe preoccupare, e questa è la realtà, insomma. Gli stati nazionali hanno molto spesso sacrificato delle ricchezze che io, da vecchio europeista, mi sono sempre augurato che queste ricchezze invece potessero crescere nuovamente in Europa, ecco, in un disegno dell'Europa che in questo momento è talmente tutto in crisi, è difficile essere ottimisti, però io continuo pervicacemente a sperare, ecco, in un momento in cui potremo rilanciare questa idea, al di là delle pastoie dell'euro, della Banca Centrale Europea e di tutto il resto, ecco, ritrovarsi in un modo. Forse abbiamo cominciato male questa Europa, l'abbiamo cominciata dal tetto, dalla moneta unica. Bisogna cominciare alla base, la base purtroppo è la scuola. Non abbiamo fatto niente per diventare buoni europei sul piano della scuola, non abbiamo insegnato una storia europea comune, non abbiamo curato un parco, e noi italiani lo sappiamo in particolare modo, un parco di ampliamento di cognizioni linguistiche già dalla scuola elementare o addirittura media. Adesso si insegna un malinconico basic English perché è ancora la lingua del paese egemone, ma non perché si pensi che possa essere un cemento della futura unità europea. Beh, un eccesso di questo, perché altrimenti poi potrei dar l'impressione di voler buttare la cosa in politica, e non è questa la mia idea, anche perché io di politica non mi occupo. Ultima cosa, poi si parla del libro, mi fa piacere perché qui a Bolzano ho ritrovato vecchi amici di una vecchia viaggio, crociera fatta insieme in America Latina, una cosa molto, molto interessante, quindi ho molti motivi per essere molto contento, e anche è stata molto una sorpresa gradita vedervi così numerosi. Ecco, sappiate che nella colta Firenze, che non è poi quella città così piccola e povera come dice un mega direttore galattico di qualche cosa, ma che non è nemmeno purtroppo una grande capitale della cultura ormai, beh, a Firenze stanare alcune decine di fiorentini per venire a discutere un libro di storia è sempre più difficile. Ecco, la Biblioteca Nazionale di Firenze non si sarebbe osato fare a quest'ora di notte o di sera una serata come questa, quindi grazie veramente anche per questo. Ciò premesso, e per dare una prima risposta a quello che mi ha chiesto Giancarlo Riccio, sì, è una grande tragicommedia, poi spiegherò meglio che cosa c'è di comico nell'assedio di Vienna. È un grande momento in cui veramente le forze portanti dell'Europa si trovano tutte lì concentrate sotto le mura di Vienna. In quel paio di mesi non c'è il sultano non si muoveva ordinariamente da Toccapè, ma c'è il Gran Visir, c'è evidentemente l'imperatore Leopoldo, anche se secondo me giustamente, e lo dico nel libro, non si è fatto imbottigliare a Vienna e non per viltà, come qualcuno disse, ma semplicemente perché era ovvio che in quel momento la sua persona serviva altrove. Infatti si sposta leggermente, va a Passau e da Passau continua a controllare le cose. Certo, lui è il primo a sentirsi a disagio, sapendo che insomma il suo popolo, la gente della sua capitale, soffre una pressione così forte come due lunghi mesi d'assedio. Ma non c'è soltanto Leopoldo, non c'è soltanto Kara Mustafa, c'è Jan Sobieski, Giovanni III di Polonia, ci sono i principi principali, i più grandi principi dell'impero, sono più o meno tutti lì, a cominciare evidentemente da Baviera e da altri. Poi c'è una presenza-assenza molto forte, forse due, forse tre. Lasciamo perdere, mettiamo da parte il doge di Venezia. Venezia è un'altra delle protagoniste di questo dramma, che però va lasciata un po' in trasparenza. Poi entrerà, dopo la liberazione di Vienna, entrerà anche Venezia in campo fortemente, sarà una delle anime della grande riconquista del mondo adriatico, egeico, balcanico, che nella controffensiva che dal 1684 poi porterà alla pace di Passarovitz del 1718, con quella che noi da europei chiamiamo la liberazione del mondo balcanico, almeno fino a Belgrado. Poi Belgrado sarà ripresa di nuovo dagli ottomani. Sapete, questa parola liberazione è sempre molto ambigua, insomma, spesso la liberazione per gli uni e l'occupazione per gli altri, insomma, a chi appartengono le città o i paesi è molto complicato dirlo. C'è la presenza di Papa Innocenzo XI, che non è a Vienna, anche se a un certo punto ha pensato concretamente di doverci andare a dare una testimonianza, però non, non c'è andato, ci ha ripensato, oppure non ce l'hanno fatto andare, non ho mai capito, ma la documentazione a questo riguardo è molto fragile, molto scarsa, e quindi questo è un tema che forse va lasciato un po' da parte, va lasciato nelle note a piè di pagina, infatti è lì che ce l'ho messo. C'è un grande assente, grandissimo assente, che è il Sole, che è Luigi XIV, e su Luigi XIV si addensano gli interrogativi, i sospetti, ma veramente sarebbe stato contento se il turco fosse entrato a Vienna? Può darsi che tutto sommato, se veramente il turco fosse entrato a Vienna, e poi entrare a Vienna è un conto, poi bisogna vedere come il turco avrebbe potuto entrare a Vienna. Un conto è se fosse entrato, e qui anticipo qualche cosa che poi forse dovrò riprendere, un conto è se Kara Mustafa ci fosse entrato pacificamente in una città che si fosse arresa, gli avesse aperto le porte, gli avesse offerto un compenso, come si usava, in denaro molto alto, un compenso alto ma per i soldati un po' deludente anche per il suo esercito, e ci fosse entrato, non dico dal liberatore, questo no, si trattava di una città cristiana, della prima città dell'impero, ma comunque perlomeno da pacificatore, perché c'è poco da fare, insomma, quando una guerra finisce anche chi ha perso la guerra, un po' contento di vedersi arrivare il vincitore in casa, in fondo lo è, specialmente se il vincitore si presenta con mitezza, si presenta con generosità, perché la guerra è finita. E quindi grande sollievo. Un conto quindi se Kara Mustafa fosse entrato così a Vienna. E senza dubbio Kara Mustafa, forse, dire senza dubbio e forse è una contraddizione, quindi devo scegliere, diciamo forse, molto probabilmente, Kara Mustafa avrebbe voluto entrare così a Vienna, o forse addirittura non ci avrebbe nemmeno voluto entrare, gli sarebbe bastato di poter levare il campo onorevolmente con una pace stipulata a suo favore e dare l'impressione di colui che generosamente abbandona Vienna, la libera dalla sua presenza, avendone naturalmente tutti i vantaggi del vincitore, vantaggi territoriali, vantaggi economici, eccetera. Se invece Kara Mustafa ci fosse entrato come volevano le sue truppe, come avrebbe voluto il Khan di Crimea, come avrebbe voluto il Pascià di Buda, anche se nel Khan di Crimea e nel Pascià di Buda erano contenti di quella guerra e la ritenevano un passo troppo affrettato, la ritenevano un'avventura esagerata, però una volta che erano entrati in ballo e dovevano ballare, anche loro avrebbero preferito prendere Vienna così. Perché? Per un motivo di orgoglio e di ferocia? No, semmai per un misto di affetto e di paura, affetto e paura indirizzata sempre nei confronti dei loro soldati, perché come sapete le guerre, anche le guerre esterne, soprattutto le guerre esterne, si fanno sempre principalmente per delle ragioni interne, e quando si portano circa 300.000, i conti sono complicatissimi, io ho cercato di rabberciare qualcosa ma vi assicuro che è una fatica improba, quando si portano 300.000 persone sotto una città, di cui la metà buona di combattenti, quindi chi dice che c'erano 300.000 turchi a sede a Vienna dice una verità, ma dice anche una bugia, perché 150 erano logistica. I turchi avevano una logistica divertentissima, gli occidentali li prendevano sempre in giro, perché quando arrivava l'esercito turco, prima arrivava qualche centinaio di giannizzeri che facevano paura, ripulivano il terreno, però organizzavano anche gli accampamenti, perché il turco si muove come i romani, ogni giorno fa l'accampamento, nell'accampamento ci debbono essere non solo le staccionate, gli acquartieramenti, ma ci devono essere i servizi igienici, la canalizzazione dell'acqua, l'hammam, il bagno. Questo faceva tanto ridere gli occidentali, anche perché dopo l'ondata della qualche centinaio di giannizzeri che ripuliscono il terreno e fanno anche paura e preparano gli acquartieramenti, arriva una massa di animali, buoi, pecore, capre, con i caprai, con quelli che suonano con zufoli per far stare le bestie in fila, i cani da pastore. Naturalmente questo faceva molto ridere gli occidentali, perché l'esercito del Gran Signore prendeva l'aspetto un po' di una massa di pastori che si muoveva, poi arrivavano gli eserciti. Questa cosa che faceva ridere gli occidentali, lo ha spiegato molto bene il più grande e geniale conoscitore occidentale del modo turco di fare la guerra, che era il maresciallo principe Raimondo di Montecuccoli, modenese, maresciallo dell'impero, grande vincitore di San Gottardo, il quale sottolinea questo fatto e dice agli occidentali, all'esercito cristiano, al suo esercito imperiale: attenzione, noi perdiamo sempre le guerre, anche quando vinciamo le battaglie, raramente, perché di solito le perdiamo non per motivi militari, perché siamo bravi, coraggiosi, ben armati, ma per motivi logistici. Noi perdiamo le guerre perché siamo sporchi, abbiamo i pidocchi, mangiamo male, mangiamo carne salata, mangiamo galletta, e quindi ci viene la dissenteria. Mi dispiace in quest'ora post-cenale così evocare questi fantasmi, ma è questo che scrive il maresciallo Montecuccoli: noi perdiamo perché abbiamo una cattiva logistica. E qui c'è la base delle guerre moderne occidentali, perché il re sergente è andato idealmente a scuola dal maresciallo Montecuccoli, perché si è capito quello su cui poi insistono gli strateghi moderni: le guerre si vincono principalmente e soprattutto con la logistica. Insisto su queste cose perché si tratta di un meccanismo, questo dell'assedio di Vienna, estremamente complesso, che alla fine si traduce in una specie di commedia dei sottintesi o dei malintesi. Ma veramente, cara Mustafa, che era un parvenu, protetto della grande famiglia visirale dei Köprülü, ma lui personalmente era poco più che un povero orfanello, arrivato a livello di gran visir, perché nel mondo musulmano si poteva far carriera anche cominciando dal nulla, a differenza che nell'Europa cristiana ancora del 600 o del 700, se non esci da una famiglia nobile fai poca strada. Nell'Islam no, per questo molti cristiani si facevano turchi, come si diceva al tempo. Il Gran Visir è un uomo che non ha una grande esperienza militare, ma una grande esperienza politica, ha buoni generali al suo servizio, ha una buona cartografia. E allora, ma veramente uno che vuole andare a prendere Vienna partendo dalla Turchia si mette a attraversare la pianura balcano-danubiana di primavera? Soprattutto poi quando c'ha dietro a sé dei cannoni. I cannoni affondano nel fango, e chiunque abbia attraversato anche con le autostrade di oggi la pianura balcano-danubiana sa che cos'è nelle mezze stagioni. È un acquitrino immenso. Veramente si può fare un errore di questo genere da parte di uno che, come Gran Visir dell'Impero Ottomano, alla pianura balcanica la conosce, ma il sistema balcano danubiano lo conosce benissimo. Ancora, è vero, quando nelle mezze stagioni l'artiglieria si porta male nel mondo balcanico perché affonda, ma è una buona ragione per andare all'assedio di una città come Vienna, che aveva fortificazioni mediocri. Le riorganizzano all'ultimo momento febbrilmente, ma insomma non era granché come fortezza, ma era pur sempre una fortezza temibile. Poi fra l'altro Vienna è difficilissima da essere presa d'assedio, lo sapeva bene il sultano Solimano, ci aveva provato un secolo e mezzo prima e poi se n'era andato, perché Vienna, almeno per la sua porzione di nord-est, non è circondabile da accampamenti o da trincee, perché c'è il Danubio. È vero che il Danubio è navigabile, quindi ci possono arrivare navi da guerra. Non è il Danubio di oggi, non vi immaginate la bellissima autostrada d'acqua, era un immenso lago costellato di isole, di paludi, eccetera, permeabile, ci passavano i corrieri che uscivano da Vienna assediata, c'erano anche evidentemente le sentinelle e i posti di blocco turchi, ma certamente non si poteva fare l'assedio da lì. Ma anche da ovest, da sud e da est, dove Vienna è assediabilissima, ma si va a assediare Vienna con un parco di cannoni di 130 pezzi, cioè una miseria, esercito di 150.000 combattenti, 130 pezzi per giunta, disomogenei fra loro, con pochissime munizioni. Poi, essendo i pezzi disomogenei, di diverso calibro, naturalmente sulle munizioni c'era una confusione tremenda. Pezzi di riporto, in più tutti i pezzi leggeri, da campo, non da assedio. Da assedio le fonti oscillano, qualche fonte parla di 4 grandi bombarde da assedio, che sono quelle che poi fanno più scena che altro, ma probabilmente erano 4 all'inizio, poi ne arriva una sola e non serve, e non ha mai servito a un granché. Ma si fa veramente l'assedio di una città come Vienna con condizioni di questo genere? Ultimo elemento, Kara Mustafa arriva sotto Vienna nel luglio del 1683. Fa le controvallazioni, naturalmente, cioè trincee intorno alle mura di Vienna, e lì avvengono varie cose. Un assedio che si fa soprattutto con le mine, nel senso, si fanno le gallerie si riempiono di polvere nera e poi si fa saltare ogni cosa, saltano anche le mura, però il nemico che sta all'interno fa delle contromine, cioè delle gallerie anche lui, che tendono a sfociare sulle gallerie ottomane e naturalmente a svuotarle, quindi in seguito a combattimenti con i minatori ottomani, eccetera. Per 2 mesi si va avanti in questa maniera, anche con piccoli episodi, sortite cristiane, attacchi alle mura, però in 2 mesi, guardate, 2 mesi sono tanta roba, in 2 mesi Kara Mustafa, sapendo benissimo che la cristianità è in ebollizione, perché si può anche avere antipatia per il Sacro Romano Imperatore, ma insomma è pur sempre il primo monarca dell'Occidente, Vienna è una delle prime città cristiane, una città santuario, piena di reliquie, oltre ad essere la capitale dell'impero. Beh, la cristianità ha già subito l'affronto della conquista di Costantinopoli nel 1453, può subire anche quello della conquista di Vienna 2 secoli e mezzo dopo? Beh, insomma, è quasi impensabile. Quindi la cristianità si muoverà. Si sa bene che l'imperatore sta cercando di mettere insieme delle truppe, è una parola mettere insieme le truppe nel Sacro Romano Impero. Nei territori ereditari di Casa d'Austria sì, lì si fa una bella leva e ci si organizza, poi si pagano i mercenari e quello è normale. Quando si arriva però ai Kreise dell'impero, oppure a trattare coi principi dell'impero, lì sono dolori, né un soldo né un soldato se non si abbassano le tasse. E c'è poco da fare, il Sacro Romano Impero è fatto così, mirabile monstrum, come diceva Samuel Pufendorf, no? Non siamo mica nella Francia assolutista del Re Sole, dove bastava una parola e tutti erano lieti di dare il proprio sangue per il re, come fa dire Alessandro Dumas a uno dei 4 moschettieri. No, lì il sangue per l'imperatore, se l'imperatore non abbassava le tasse non si dava. E poi c'erano i principi, i quali, per carità, l'imperatore chiama, l'imperatore è il signore feudale, si accorre immediatamente, 40 giorni di servizio, dopodiché se l'imperatore vuol mantenere i bei reggimenti sassoni, i bei reggimenti del Brandeburgo, i bei reggimenti bavaresi, se li paga, li ingaggia come mercenari, perché altrimenti loro tornano a casa, a bandiere spiegate con tanto di trombe e di tamburi, perché hanno eseguito il loro dovere feudale e l'imperatore può solo ringraziarli. Però se non li paga lo tornano a casa e non c'è cristianità che tenga. è un bel guaio. A chi si chiede aiuto? Al re di Francia? Il re di Francia non è che il re di Francia voglia vedere la mezzaluna trionfare su Vienna, eccetera. Il re di Francia vuole semplicemente occupare l'imperatore. Perché più l'imperatore è occupato a difendere Vienna o a rabberciare la situazione balcanica, più è obbligato a lasciar perdere quello che succede a Occidente. E a Occidente succede che il re di Francia si sta mangiando la Lorena, l'Alsazia, la Saar, il Palatinato, e succede anche che i buoni principi dell'impero, i principi vescovi delle città renane, principe vescovo di Colonia, di Magonza, di Treviri, sono contentissimi se arriva il re di Francia al posto dell'imperatore. Sono contenti perché il Reno è, dal punto di vista cattolico, minacciato dai luterani e anche dai calvinisti. Strasburgo. Strasburgo è una città che in gran parte è ancora luterano-calvinista. E i buoni cattolici di Strasburgo, quando il re di Francia arriva, e il Papa stesso, quando il re di Francia nel 1681 occupa Strasburgo, contro ogni legge internazionale, contro ogni buon diritto, eccetera, i cattolici sono contentissimi, perché sanno che l'imperatore, pur essendo cattolico, deve rispettare i suoi sudditi protestanti, ci sono le leggi al riguardo, come i suoi sudditi cattolici, mentre il re di Francia no. Il re di Francia le guarantige ai luterani, ai calvinisti l'ha abolite, le leggi di Nantes l'ha cancellate. A questo punto il re di Francia, per il re di Francia i protestanti sono le fuorilegge. E la buona borghesia cattolica di Strasburgo preferisce il re di Francia all'imperatore, non lo va a dire in giro. E quindi la situazione è estremamente complessa. Quindi dal re di Francia non ci si potrà aspettare molto. Ma dall'impero qualche cosa arriva, dall'Italia qualche cosa arriva, da Venezia qualche cosa arriva, dal Papa arrivano aiuti anche in denaro e in appoggio morale, che vuol dire moltissimo. E poi soprattutto si mobilita la Polonia. La Polonia è una discreta forza militare, nonostante tradizionalmente la Polonia sia filo francese, lì avviene lo strappo. Il re Giovanni III, sicuramente consigliato dalla moglie, Maria Casimira, nata marchesa di Lagrange, che però ce l'aveva col re di Francia perché il re di Francia aveva un po' maltrattato suo padre per vari motivi e anche per motivi forse politici. A questo punto la Polonia strappa il suo rapporto con il re di Francia, che spera almeno che la Polonia resti neutrale, non si muova in appoggio all'imperatore, e arriva in appoggio all'imperatore. Ora, con questo quadro, di cui il Gran Visir è sicuramente dettagliatamente informato, anche perché ha le sue brave spie, anche nel campo imperiale, è cosciente di avere una grossa quinta colonna nella stessa Vienna, perché Vienna è diventata cattolica, ma da pochi decenni, ed è diventata cattolica un po' col ferro e col fuoco, con le persecuzioni, con la repressione. Quindi volete che non ci siano anche in Vienna, e ci sono i documenti che ce lo dicono, tanti buoni sudditi viennesi che preferiscono il sultano, non all'imperatore, il problema non è quello, preferiscono il sultano al papa. Preferiscono il sultano a un imperatore che li tiene soggetti alla Chiesa cattolica, perché è così che pensano i luterani, è così che pensano soprattutto i calvinisti. E in quel momento l'Ungheria, non solo l'Ungheria ottomana, ma anche la piccola, l'esile Ungheria regia, che poi non corrisponde a poco dell'Ungheria attuale, ma corrisponde alla Croazia, Slovenia, Slovacchia praticamente, anche quella è piena di luterani, è piena di calvinisti, ed è gente che può fare la quinta colonna del turco. In una situazione del genere, cara Mustafa può sperare che Vienna gli apra le porte, o che Vienna si dichiari esausta, o che l'imperatore patteggi a suon di monete d'oro la ritirata da vincitore dell'esercito ottomano. Però questo ottimismo del Gran Visir, domanda, può arrivare al punto da consentirgli di non circumvallare il suo accampamento. Quando ordinariamente si attacca, si comincia un assedio, si fanno le opere di controvallazione per fronteggiare gli assediati che sparano dalle mura, è un loro diritto, per carità. E però si fanno anche le opere di circumvallazione alle spalle per non essere aggrediti da eventuali alleati degli assediati. E Gramsir lo sa che c'è l'Europa in fermento, può confidare finché vuole nella criptoamicizia del re di Francia, nel cattivo umore del re di Polonia, che notoriamente è leggermente matto, insomma simpaticamente matto, per cui si può sempre sperare che cambi idea. Può sperare in tutto quello che vuole, ma per dirci, un minimo di prudenza richiede che si circumvalli. E questo arriva a Vienna con un cattivo parco di artiglieria, perde 2 mesi in scaramucce, non circonvalla nemmeno, ma che gioco sta facendo? Evidentemente Kara Mustafa non vuole conquistare la città, è convinto che la città in qualche modo gli cadrà ai piedi o gli cederà. Ecco dov'è la commedia un po' degli equivoci di questo grande assedio. Con tutto questo, naturalmente, la parte più interessante fosse l'assedio, non è tanto, io non sono uno storico inglese, dovrei dire purtroppo, perché gli storici inglesi sono bravissimi, però gli storici inglesi, ci sono delle prove anche recenti, Webcroft e prima di lui Stone, eccetera, concepiscono per esempio il racconto dell'assedio di Vienna come il racconto delle effemeridi delle operazioni militari sotto le mura. Giorno tale succede questo, giorno tra l'altro succede quest'altro. Parlo, per carità, indebitamente, ma parlo anche a nome dei colleghi francesi, tedeschi, eccetera. Non facciamo, salvo gli storici militari puri, e ce ne sono anche molto bravi, noi solitamente una storia, un episodio di storia che certamente è anche di storia militare, come l'assedio di Vienna, come anche la battaglia di Lepanto, mi riferisco al libro recente dell'amico Barbero, che è un po' uscito però quasi contemporaneamente al mio, lo concepiamo in un'altra maniera. Noi vediamo soprattutto come interessante il problema politico, il problema diplomatico, il problema sociale, le condizioni dei combattenti, le forze in presenza, valutiamo meno i problemi tattico-strategici. Naturalmente sono modi differenti di fare la storia. Io, se non avessi avuto la possibilità di utilizzare una gran massa di studi, soprattutto appunto di storici inglesi che mi raccontano per filo e per segno come è andato l'assedio, non avrei potuto fare un libro di questo genere, che può essere un libro cattivo, mediocre, questo è un altro discorso, ma che comunque è un libro che si permette il lusso di guardarsi intorno e di ricostruire, per così dire, un contesto. Avrei dovuto spendere un sacco di energie invece ricostruendo l'aspetto tattico-strategico di quei 2 mesi, perché ci fu, perché è importante, bisogna capirlo, e invece mi sono potuto limitare a poche pagine, poche fino a un certo punto, ma a non molte pagine di ricostruzione sintetica, perché mi interessavano altre cose. Ho divagato, non ho risposto alle tue domande, ma adesso... E sapessi da quanti anni io faccio le domande e spesso non mi rispondono, almeno da te, speravo. No, naturalmente il tuo percorso è molto interessante, ma in attesa di dirci, per quei pochissimi che non lo sanno, forse nessuno, chi ha vinto, ma chi ha vinto davvero, perché ci sono state alleanze intorno a questo assedio che... voglio dire, inspiegabili oppure bizzarre, e quando si parla di atteggiamento del Re Sole, di altre leadership europee, viene in mente per esempio anche un'Europa più vicina a noi storicamente. Però in filigrana questo librone, che è davvero molto, molto bello e non... che è una piccola vende, una piccola svolta nella storia di queste cose in Europa. In filigrana vi leggiamo, e leggiamo anche in quanto ci stai dicendo, il pericolo, lo spettro di un conflitto religioso tra religioni, che è una grande sciocchezza, se non ci fossero delle signore dovremmo essere volgari, e l'altro, insomma, il pregiudizio secondo il quale le fedi religiose sarebbero alla radice dei conflitti di civiltà, che è un tuo cavallo di battaglia intellettuale molto anche storiografico importante. L'altra cosa è che questo assedio sia appunto un paradigma, un riferimento anche dei conflitti di culture. Tu in più di un'occasione invece hai sostenuto, e non sei il solo, che le culture inevitabilmente si mischiano, si intrecciano, si contaminano, parolaccia che si usava quando io ero giovane e metà dei presenti girava per Bolzano con la cicogna, dicevano vado lì, vado là, adesso vediamo quale la cicogna cosa fa. Ma voglio dire, i conflitti, le culture inevitabilmente, ne sappiamo qualcosa in una terra di frontiera, di confine, di intrecci storici, spesso non semplici, nonostante l'ottimismo di certi politici di un po' tutti i colori che sostengono che invece va tutto bene, ma ci stanno turlupinando, ma poi tra un po' di mesi si vota e quindi potremo dire la nostra. Ma i conflitti di cultura sono inevitabili solo in apparenza, perché le culture si mischiano di continuo, e poi l'altra cosa è che i conflitti religiosi siano uno spunto per chissà quale altro tipo di conflitto. Sono due stereotipi, anzi due gruppi di stereotipi, due proprio filoni di luoghi comuni che tu hai sempre combattuto rompendo molto le scatole nel mondo accademico, e meno male. Ce lo vuoi spiegare meglio? E poi però ci devi dire chi ha vinto, Ma dunque, anzitutto io, facendo il professore, come qui ci sono dei colleghi, quindi lo confermeranno, ho un po' molto la deformazione professionale del professore, e noi siamo una corporazione affetti da impotenzia dominandi e convinti allo stesso tempo di essere dei paterni, cioè voglio dire, sappiamo benissimo che non contiamo niente, però allo stesso tempo siamo anche convinti, persuasi al tempo stesso che insomma, se si rivolgono a noi e noi diciamo una parola, Roma locuta, causa finita, come si dice nel linguaggio di Santa Romana Chiesa. E io ho fatto molte volte in vita mia questo errore, e continuo un po' a farlo, no? Cioè, senza dubbio questo libro forse non sarebbe mai stato scritto se non ci fossero state le due forbici. E cioè alludo all'11 settembre, 9-11, all'11 settembre del 2001, in questo senso. Nel senso che io, per carità, mi occupo di storia delle crociate dagli inizi degli anni 60. Il mio venerato maestro, che era anche un vostro quasi concittadino, insomma, era trentino, Ernesto Sestan, obtorto collo, perché a lui delle crociate non gliene fregava niente, e accettò di darmi una tesi su questo argomento, perché io avevo delle simpatie, degli interessi per il mondo orientale, per quello che più propriamente si chiamerebbe l'orientalismo, la visione che gli occidentali hanno dell'Oriente, perché avevo avuto anche delle esperienze di viaggio, qualche limitata esperienza linguistica, infatti andai poi per alcuni mesi in Israele, poi ci sono tornato, insomma conosco un po' questo tipo di ambiente, ho fatto qualche esperienza. Non sono un orientalista, ma sono uno che si occupa dei rapporti fra Oriente e Occidente e di come gli occidentali guardano all'Oriente, quella cosa bislacca che noi chiamiamo Oriente, specialmente al mondo musulmano praticamente. Per lunghissimo tempo io sono stato circondato da colleghi, amici, familiari, lo stesso mio maestro, e mi diceva: ma perché tocco qui queste cose? Non ne frega niente a nessuno. E in effetti io mi trovavo in una situazione anche delicata dal punto di vista storiografico. In Italia perlomeno ero quasi un isolato, io volevo studiare le crociate, dovevo andare in America a Princeton oppure a Salt Lake City. Doveva andare a Parigi, doveva andare a Kiel, dove insegnava Hans-Eberhard Meyer, oppure a Göttingen, dove insegnava Joseph Fleckenstein, che si occupava di queste cose, e infatti in Israele, e infatti ci sono andato. In Italia, al massimo le crociate interessavano a qualcuno che si occupava di storia religiosa o a qualcuno che si occupava di storia economica e le vedeva nella prospettiva delle città marinare, e va bene. Poi, che volete, a un certo punto mi è arrivato addosso, prima l'Imam Khomeini, 1979, poi tutta la faccenda del fondamentalismo, poi sono arrivate tutte le varie guerre, la prima guerra del Golfo, eccetera, eccetera, poi è arrivata la sassata dell'11 settembre e io mi sono visto sbattuto veramente in prima linea. E a questo punto ho fatto il tipico errore da professore universitario, ho detto: ma quante sciocchezze si dice al mondo adesso, mamma mia, televisione, quante inesattezze, quante imprecisioni, adesso ci vado io insieme con qualche altro collega, mettiamo i puntini sulle i, diciamo che per esempio l'Islam non è quello che si racconta sui giornali, che si fanno delle inesattezze, eccetera, le illusioni dei maestrini praticamente, no? Perché non ci siamo resi conto che se facevamo così non è che gli altri si mettevano tutti buoni in colonna a dire: oh, il professore ci ha spiegato che belle cose, ma allora bisogna dire no, dici una cosa e vieni immediatamente infilato, che tu lo voglia o no, in un partito, in un gruppo. Dici per esempio: ma guardate, l'Islam non è mica quella cosa orribile, tremenda che dite voi, eccetera. Dice: ah, ma allora ella è filo musulmano, ma se ella è filo musulmano sarà che è anti-americano, allora sarà che è antisionista, ma allora sarà che sotto sotto è anche antisemita, perché poi le cose, il rosario delle stupidaggini si sgrana in questa maniera. E sommi stupidi siamo noi, colti, preparati, sedicenti e anche intelligenti, che non ci siamo resi conto di questa trappola in realtà. Avremmo dovuto mantenere la calma e il riservo, non sempre l'abbiamo fatto, io non l'ho fatto per esempio, io mi ci sono anche arrabbiato. Forza ad arrabbiarsi e di constatare che arrabbiarsi è assolutamente inutile, fa solo male alle coronarie. A un certo punto uno che fa il mio mestiere dice: vabbè, ma guardiamoci meglio dentro, così intanto mi chiarisco le idee io e poi magari le chiarisco anche all'un per mille dei miei ascoltatori che mi sta un po' a sentire. Allora ecco, è un po' buffo, è un po' una montagna che partorisce un topolino, ma in 10 anni di polemiche, di arrabbiature, di polemiche sui giornali, di frustrazioni e via discorrendo, nel frattempo uno comincia a studiare una cosa. E perché proprio l'assedio di Vienna? Io faccio il medievista, mi sono dovuto, è vero che ho una passionaccia 6-700esca che mi viene anche quella da Sestan, che era un grande studioso del Settecento, anche se si è occupato soprattutto di Medioevo. Mi è piaciuto l'assedio di Vienna perché nel corso delle polemiche che sono maturate in questo decennio, e le polemiche, sapete, soprattutto le polemiche basate sulla storia, fatte, impostate da gente che la storia non la sa o la sa poco, finiscono col focalizzarsi su alcuni grossi avvenimenti di carattere bignamesco, cioè di quelli esemplificati nei piccoli manuali del Bignami, no? Quelle cosine che si ricordano un po' tutti bene. E allora c'è la battaglia di Poitiers, allora c'è la battaglia di Lepanto, e allora c'è Vienna. Vienna un po' in sottordine, perché gli italiani sanno un pochino di storia, sanno pochissimo di storia di paesi che non sono l'Italia, ma semmai sanno qualcosa forse di storia francese, ecco, di storia tedesca veramente. È strano, perché l'Italia e la Germania sono storicamente collegati, e dico Germania in senso ampio, quindi c'entra anche l'Austria senza nessun riferimento pangermanista. E la storia tedesca sarà perché la balla del secolare nemico e tutto il resto, questo, ma sarà perché l'italiano e il tedesco sono due lingue lontane fra loro, e però gli italiani non masticano di cose tedesche, non masticano granché, e allora naturalmente emerge poco Vienna, mentre emerge molto Poitiers 732 o Lepanto 1571, formulate in una maniera per me estremamente affascinante, perché è una formulazione che a livello massmediale si poneva in termini ucronici, del tipo cosa sarebbe successo che. Ora io sono d'accordo con David Landes, insomma, voi direte grazie, sì, insomma, mi paro di essere una grande autorità, il quale sostiene che la storia non solo si può, ma si deve fare con i se e con i ma, perché è soltanto come i medici fanno l'analisi differenziale per stabilire che malattia ha il loro paziente, perché i sintomi più o meno delle malattie, dalle più leggere alle più gravi, sono quasi sempre gli stessi, e sono pochi, e si somigliano, e allora il medico deve fare l'analisi differenziale, lo storico deve fare lo stesso. In fondo, nella storia ormai che vince chi ha ragione perché ha vinto, e che ha vinto perché aveva ragione, beh, insomma, in sintesi, questa volgarizzazione dell'hegelismo l'abbiamo superata tutti, l'abbiamo tutti messa da parte. Però è importante chiedersi che cosa sarebbe potuto succedere. Intendiamoci, una volta chiestosi che cosa sarebbe potuto succedere se, la domanda è corretta, le risposte sono scorrette se sono risposte mirate. Non è vero che se le cose non fossero andate in una maniera sarebbero andate in un'altra. No, se le cose non fossero andate come sono andate, avrebbero potuto andare in una gamma infinita di modi, che a loro volta avrebbero potuto partorire un'altra gamma infinita di possibilità. Quindi, in ultima analisi, studiare la storia a livello ucronico, cioè porsi sistematicamente la domanda cosa sarebbe potuto accadere se, è utile soltanto se si vuol capire l'importanza reale di quello che è accaduto veramente. Quindi non è corretto, faccio volutamente un esempio imbarazzante, non è corretto dire oh che orrore se Hitler avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale. Non lo possiamo tecnicamente dire. Possiamo dire che questa è la nostra opinione, possiamo dire che la nostra opinione è largamente verosimile, ma non possiamo ipotecare un futuro che non è avvenuto. Avrebbe potuto succedere qualunque cosa, e poi cosa vuol dire vincere e cosa vuol dire perdere? Vi sono fatto l'esempio di Kara Mustafa che entra a Vienna, ci sarebbero stati tanti modi di entrare a Vienna, ci sarebbero stati tanti modi anche di vincere o di perdere qualunque altra guerra e non solo la Seconda Guerra Mondiale. Mi sembrava diseducativo, mi sembrava immorale, mi sembrava soprattutto cretino l'esempio che portavano sempre tutti. Mi ricordo una grande paginata sul Corriere della Sera firmata da Paolo Mieli: se il turco fosse entrato a Vienna, lui prendeva l'esempio da una situazione di un libro che parlava anche solo tangenzialmente dell'assedio a Vienna. Non si può dire che cosa sarebbe successo. Cosa sarebbe successo se Abdarrahman nel 732 avesse battuto Carlo Martello a Poitiers? Per quanto ne so io, che faccio il medievista e qui gioco in casa, probabilmente sarebbe successo che le truppe di Abdarrahman avrebbero saccheggiato il santuario di San Martino di Tours, che era esattamente quello che volevano fare. Ma quando Edward Gibbon nel 700 dice, facendo anche lui dell'ucronia ante litteram, allora se Abdarrahman avesse sfondato le linee franche i saraceni sarebbero dilagati per tutta Europa e oggi dalle torri di Oxford si griderebbe l'appello alla preghiera nel nome di Allah. A parte il fatto che nell'VIII secolo le torri di Oxford non c'erano, questo è inesatto, anzi è sballato. Nell'Europa dell'VIII secolo non sarebbe potuto accadere nulla di questo genere, e lo prova il fatto che la battaglia di Poitiers è del 732 o 733, non si sa nemmeno quando è accaduta con precisione. Nel 750 gli arabi di Spagna prendono Tolosa, una delle città più grandi e più ricche della Gallia cristiana, non succede quasi nulla. Succede che un principe musulmano sposa una principessa cristiana, che ha proprio figlia di un gran signore della zona della Media Loira, e diventa, e a sua volta entra quasi nel sistema prefeudale dei re franchi. Punto e basta. Evidentemente la storia ha questo di bello, grazie a Dio, che è imprevedibile. E però è importante a livello storiografico che Gibbon abbia detto questo. Ma Gibbon parlava queste cose le scriveva nel Settecento. Gibbon parlava degli arabi di Spagna ed era interessato agli arabi di Spagna perché era un grande storico, però il suo pensiero dominante in profondo era il pericolo turco, ancora in pieno Settecento. Parlava degli arabi di Spagna, pensava dei musulmani di Spagna, pensava a un altro tipo di musulmani, diversissimo. Musulmani di un millennio dopo, i musulmani ottomani, di tutt'altra scuola teologica, di tutt'altro atteggiamento esistenziale, di tutt'altro tutto rispetto agli arabi di Spagna di un millennio prima. Però evidentemente la sua domanda era rivolta alla gente che lo leggeva in quel momento. E queste cose si fanno continuamente, e a livello pubblicistico, giornalistico, è anche inevitabile farlo, oserei dire, fra virgolette, perfino giusto. Però non bisogna pensare che quello corrisponda a una qualche esattezza obiettiva, perché questa esattezza obiettiva non c'è. Cosa sarebbe successo se il turco avesse trionfato a Lepanto? Sarebbe successo che la guerra di Cipro 1570-1572 sarebbe durata un po' meno, perché il turco ormai Lepanto l'aveva, Cipro l'aveva presa, la battaglia di Lepanto vinta non dai cristiani ma dalla flotta veneto pontificio spagnola. L'imperatore non c'entrava nulla, non aveva dato né un soldo, né un soldato, né un marinaio. Il re di Francia, figuriamoci, c'era tanto di guerra con gli Ugonotti, c'aveva altro a cui pensare. La regina d'Inghilterra, per carità, semmai tifava per il turco. Quindi dov'era quest'unità cristiana? Evidentemente non c'era. Come non c'era l'unità musulmana? Tutte le volte che il turco viene sconfitto da una potenza cristiana, immediatamente alla corte della potenza cristiana che ha vinto il turco, che solitamente è o l'imperatore romano-germanico, o il doge di Venezia, oppure idealmente anche il Papa, arriva regolarmente l'ambasciata dello Scià di Persia. E regolarmente l'ambasciata dello Scià di Persia dice: bene, avete fatto bene, ora è il momento di dargliele, mettiamoci insieme, alleiamoci, Carlo V e Tamasp Shah, metà del XVI secolo, sono arrivati a un filo da un'alleanza formale per schiacciare il sultano Solimano come in una morsa. E dov'è il conflitto di civiltà allora? Però attenzione, attenzione, perché è vero che c'è questo gioco per cui perde l'imperatore, gioisce il re di Francia o la regina d'Inghilterra, perde il sultano, è contentissimo lo scià di Persia, che è musulmano anche lui, anche se è sciita, non è sunnita. E quindi basta questo per distruggere il fantasma del conflitto di civiltà o il fantasma delle guerre di religione? No. No, ecco, anche qui bisogna stare attenti, perché quello che sfugge a noi moderni occidentali è che, per esempio, in guerre che vanno dalla battaglia di Poitiers del 732 fino all'assedio di Vienna del 1683 e anche qualche anno dopo, ancora al tempo delle campagne balcaniche di Eugenio di Savoia, ancora nella metà del Settecento, al tempo della guerra sul Mar Nero fra la grande Caterina e la sublime porta ottomana, poi non andrei troppo oltre perché ci si avvicina alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese segna effettivamente una svolta. Ancora in quei tempi il problema non è che si facessero guerre di religione o guerre sante, certo, che poi quando si faceva la guerra al turco si proclamava la guerra santa, si suonavano le campane, il Papa dava le indulgenze, ci si cuciva la croce addosso, ancora nel Settecento, non si cuciva più la croce addosso, ma si facevano cose analoghe, si proclamava la crociata, si usava il termine crociata. I musulmani la stessa cosa, proclamavano il jihad, eccetera, eccetera. Chi moriva nel nome del profeta e di Allah durante il jihad era shahid, era martire, esattamente come nel mondo cristiano. Ecco, tutto questo non lo dico per sostenere che ci fosse uno scontro frontale religioso e nemmeno per sostenere che in fondo agivano nella stessa maniera e quindi erano omogenei, ma per far notare come non è che ci fossero le guerre sante o le guerre di religione. Guerre di religione ci sono state nella nostra storia. In Francia c'è stata una forte guerra di religione alla fine del Cinquecento fra cattolici, ugonotti e calvinisti. La guerra dei Trent'anni, 1618-1648, è stata una grande guerra di religione fra cattolici e protestanti, dove veramente si tratta il nemico alla luce del principio o ti massacro o ti obbligo a convertirti. Tanto è vero che a un certo punto si è deciso non solo cuius regio eius religio, no? Ma si è deciso anche con le pace di Vestfalia quella cosa che Locke ha chiamato la tolleranza, che bisogna chiamarla col suo nome, perché Locke, scrivendo in latino, l'ha chiamata mutua inter christianos tolerantia, che vuol dire piantiamola di ammazzarsi per questioni di fede, semmai stiamo attenti perché il nemico della fede è altrove, è il turco, non il musulmano, il turco principalmente. Musulmani sono anche il Gran Mogul è musulmano, anche lo Shah è musulmano, perfino i pirati barbareschi sono musulmani, che in teoria sono sudditi del turco. Quello che fa paura è la potenza turca. E naturalmente quando si parla contro la potenza turca si riesuma tutto il vecchio bagaglio medievale antimusulmano e si dice che Maometto, le stesse cose che a un certo livello pubblicistico si dicono ancora oggi: Maometto era un uomo vizioso, era un uomo che ha creato una religione per rendere lecite certi suoi atti eccessivi, eccetera. C'è tutta una polemica al riguardo. Attenzione, ecco, la cosa fondamentale è questa, ed è quello che ci sfugge, perché noi possiamo anche pensare che queste guerre fossero veramente scontri di cultura. È un'idea superficiale, un'idea grossolana, ma insomma, liberi di pensarlo. Possiamo anche pensare che in fondo no, che c'era sempre dietro, come penso anch'io, come pensano in tanti, degli elementi di potere, che fossero scontri, sì, ma scontri di potere e non scontri di civiltà. Ma io trovo che questo è senz'altro giusto, ma trovo anche che è banaluccio, detto così. È perfino la palissiano, è ovvio che le guerre si fanno per ragioni di potere, insomma, è chiaro, è sempre stato così. Però c'è ancora qualche cosa di più da capire. Se si capisce questo qualche cosa, secondo me si comincia ad avvicinarsi un po' più concretamente alla verità vera, che è la seguente cosa: siamo in presenza di culture che vivono la fede religiosa come presidente Mao qualche anno fa avrebbe detto, come pesci nell'acqua. Cioè non siamo davanti a scontri di civiltà o a guerre di religione, siamo davanti a guerre tra persone che sono sinceramente e profondamente religiose. Siamo davanti a scontri in cui tra persone che quando sono a casa loro tranquillamente, prima di mettere il pane in forno, ci fanno sopra il segno della croce, i cristiani. E dall'altra parte, quando il fabbro musulmano, lo fanno ancora oggi in certi paesi dell'Islam, quando il fabbro musulmano batte il ferro caldo e deve contare i colpi di martello a seconda del tipo di oggetto che vuol forgiare, recita le sure del Corano, che sono 144, di diversa lunghezza, perché la diversa lunghezza delle singole sure gli serve a computare il tempo. La mia nonna faceva le stesse cose quando cuoceva le uova, no? Perché un uovo alla cocca vale 3 Ave Marie, un uovo sodo che si vuole assodare al giallo o all'arancione vale una posta di rosario, un uovo sodo molto sodo al verde vale 3 poste di rosario. Ed era esattamente la stessa cosa, ma fare questo vuol dire essere profondamente imbevuti di una cultura religiosa. Allora, in questo senso, certamente che Lepanto, Vienna, Poitiers, eccetera, sono anche guerre, non guerre di religiosi, ma guerre fra religiosi. Questo sì, questo è importante dirlo, perché è lapalissiano, è banale, è una cosa che se uno ci pensa ci arriva immediatamente. Però ecco, è una cosa che può sfuggire a noi moderni occidentali. Per esempio, sfugge molto meno ai musulmani o agli ebrei. Musulmani e ebrei questa cosa la capiscono immediatamente. Noi occidentali siamo figli del processo di secolarizzazione. E questo processo di secolarizzazione, che è stato un processo che noi abbiamo portato avanti razionalmente, eccetera, noi adesso lo viviamo come se fosse una nostra seconda pelle, come se fosse naturale. A un dibattito recente io ho cercato a un certo punto di chiarire le mie e anche le sue posizioni a un mio interlocutore e l'ho solo gettato nello sconforto, perché lui mi ha detto, a proposito dell'ambasciatore americano trucidato a Bengasi eccetera, beh, ma insomma non si può mica ammazzare la gente, io rispetto tutte le religioni, ma non si può mica ammazzare la gente nel nome di Dio, insomma, e come si fa, quale enormità. Allora io gli ho chiesto, ma scusi, lei lo sa che anche noi uccidiamo? E dice, però noi non uccidiamo nel nome di Dio. No, nel nome di Dio no, ma se ci toccano sugli interessi petroliferi, allora sì, uccidiamo. Allora lei non arriva a capire che qualcuno può pensare che il nome di Dio per lui vale almeno quanto per noi vale l'accesso alle fonti petrolifere? Questo l'ha un pochino sconvolto. E l'ha un po' sconvolto perché per noi giustamente è molto maleducato uccidere in nome di Dio. Uccidere in nome del petrolio è doloroso, ma è realpolitik. Beh, rovesciamo la cosa, e questa non si chiama relativismo, questo semmai è la relatività che ci è stata insegnata da un pochino di decenni di studio illuminato dall'antropologia culturale. Sono le cose che ci ha insegnato Claude Lévi-Strauss, soprattutto, non a fare il fitto misto in cui tutte le culture sono uguali, ma a fare quell'operazione un pochino faticosa, ma anche molto affascinante, che consiste nel cercare di capire ciascuna cultura secondo i suoi valori, rinunziando a fare sempre la classifica dei buoni, dei cattivi, dei più colti, dei più civili, dei meno civili, ma cercando di capire perché una cultura agisce così dall'interno. Poi, detto questo, siamo liberissimi di pensare che la nostra è migliore delle altre per noi. Una classifica oggettiva diventa un pochino più difficile, ma grazie a Dio, siccome non siamo il Padre Eterno, non siamo tenuti a farla, ecco. Grazie. Prima di aprire il dibattito, che credo sarà molto ricco compatibilmente con l'orario del nostro ristorante, che ha promesso cose speciali, approfitto nel frattempo per versarti dell'acqua in modo da fermarti un secondo, nonostante la saggezza che ci stai trasmettendo. Ma ecco, le ultime cose che hai detto mi richiamano a una cosa, forse c'era qualcuno di voi. Un po' di giorni fa un mio carissimo collega, dopo Repubblica ho lavorato al Messaggero, abbiamo lavorato insieme, cioè pure su fronti diversi, Valerio Pellizzari ha presentato anche qui a Bolzano un suo libro sull'Afghanistan, tu te lo ricordi, credo, Valerio, no? E insieme a Franco Angioni, che era un generale che ha diretto molte missioni non recentissime dell'esercito italiano insieme ad altri eserciti occidentali, soprattutto in Libano, sì, certo. Allora io ho ascoltato qualcosa, poi è scoppiato un altro casino che riguarda il mio lavoro di cronista, si è pure attempato, mi sono dovuto occupare l'altro, però ho fatto in tempo a sentire Angioni, generale in pensione, persona colta, molto, molto amabile, eccetera, dire a un certo punto, ma all'uditorio, eravamo alla LUB, dire ma dopo l'11 settembre, grande rispetto vero verso quelle migliaia di morti, il presidente degli Stati Uniti ha pensato di mandare in Afghanistan 100.000 persone per arrestarne due. E lui, che è un esperto del suo campo, come non riuscendovi peraltro, il Mullah Omar e naturalmente Bin Laden, e detto da un esperto di cose militari che avrebbe probabilmente avuto un ruolo anche interessante nell'assedio di Vienna di qualche secolo fa, questo mi ha colpito, anche se ho bazzicato poco quelle zone, capitava un po' a tutti della mia generazione, e insomma vi assicuro che è abbastanza formativo. Ma detto questo, Angioni, che è una persona seria, si è chiesto questa cosa e poi ha aggiunto, ma non si poteva fare un migliore lavoro di intelligence per beccarli questi due? Beh sì, per beccare loro sì, per fare altre cose no? Angioni e Valerio Pellizzari, inviato di guerra di grande valenza, ce ne abbiamo pochi in Italia, c'è qualche tedesco che tanto bravo, metà degli americani che vi raccontano la guerra stanno all'Hilton a fumarsi il sigaro e poi mandano avanti gli autisti oppure altre persone, poi si fanno raccontare le cose, ma questo è altro argomento rispetto a per quanto ci sono gli storici finti e gli storici veri. Ma voglio dire questo senza farla troppo lunga, possibile che alcuni ragionamenti che Franco Cardini ci sta riproponendo questa sera, i ragionamenti di una persona pensante come Franco Angioni, che non è un maoista rivoluzionario che scopre che gli americani sono cattivi e che l'Afghanistan è buono o delle vie di mezzo, convergano su alcune cose. Primo, il discorso di ragionare e di approfondire le fonti, cosa che peraltro riguarda anche altre categorie come quella a cui appartengo da troppo tempo. Seconda cosa, l'approfondimento di queste fonti è anche compito dello storico, mettere a confronto le idee diverse. Se Franco Cardini, che è un esempio, non è l'unico, ma un esempio molto autorevole, non facesse questo lavoro, se noi nelle nostre professioni non facessimo la stessa cosa, saremmo forse un po' più leggeri, no? Andremmo al cinema con un po' più di, appunto, di leggerezza, di leggiadria, però tutto sommato il nostro quoziente di intelligenza, il mio è molto basso, quindi siamo lì per la catastrofe definitiva, si abbasserebbe ancora di più. Sto parlando del metodo. Adesso, se proponiamo a Franco Cardini di parlarci del metodo, lì in fondo organizziamo delle tende e poi un accampamento, cioè il termos, eccetera, perché Franco Cardini è molto generoso. Bivacchi, turni di guardia, perché non si sa mai, visto quanto c'era turco in giro. Visto che ci fosse qualche turco in giro. Però ecco, credo che questa cosa del metodo sia poi una delle cose che molto meglio di me Cardini ci potrà dire, con la preghiera essere un pochino più stringato nella sua generosità di divulgatore di alto livello. C'è gente che va in televisione a parlare di uova sode e pensa di essere un divulgatore. Per fortuna ce n'è altri. No, comunque, c'è gente che racconta che suo nonno era piuttosto un neurologo, un barbiere, pensa di essere uno storico. È un cronista, bravo, eccetera, però insomma, gli storici veri magari impiegano 10 anni per scrivere un libro. E non alludo solo al tema, anche a quelli sui quali molti ci siamo formati, per quanto riguarda la storia, prevalentemente quella nordamericana, ma anche quella europea, per carità. Allora, ci vuole un metodo e una grande rispetto delle opinioni altrui, e ci vuole anche, mi permetto di ripeterlo, anche il buon senso che è venuto fuori da più di uno spunto di Cardini di questa sera, e che è venuto fuori anche da questo generoso e onesto ufficiale dell'esercito italiano, il quale appunto si è chiesto: davvero 100.000 persone, migliaia e migliaia di morti tra i soldati dell'alleanza occidentale e, ai noi, tra i civili afghani, per catturarne due senza nel frattempo vedere, cioè mandare qualche spione, ma proprio quelli di Benevento o di Bressanone, per carità, non voglio essere equivocato, che vanno lì con il giornale con i buchi, no? E spiano a vedere un po' se qualcuno di queste bestie si riesce a catturarle senza un dispendio di energie e una strage umana così insopportabile. E inoltre il fatto che questi conflitti all'estero investano polemisti, analisti che spesso dicono sono la loro. Paolo Mieli, che è stato uno dei miei direttori e uno che come storico si distende su due pagine, e uno si prepara con alcuni piegamenti alla lettura, perché sa che sarà un impegno grosso. Ma in generale il fatto che tante voci, un professore di storia e medievista importante, un ex generale che ha fatto il suo dovere in un modo come tantissimi altri, convergano sul fatto che bisogna contare fino a tre prima di colpire un paese e dire delle ovvietà e delle catastrofiche ovvietà sulle religioni diverse e sulle culture diverse. Beh, tutto questo mi sembra che attraversi il libro, i libri di Cardini. Ti chiedo allora brevemente una cosa sul metodo, se ti senti di rispondermi, e poi vorrei pregare i presenti di intervenire su tutto quanto che ci stiamo dicendo, e che mi sembra che, grazie al nostro ospite, sui quali temi abbiamo davvero tantissimi spunti. Allora, il metodo. Ma allora, la storia è una cosa pulita, cioè fare storia nel senso non di essere protagonisti della storia, questo non lo fa soltanto Giulio Cesare, lo fa anche il cuoco Giulio Cesare, ce l'ha spiegato Bertolt Brecht molto bene, è vero, e poi cioè lo scrivere storia è ricostruire il passato. E allora, perché cosa si ricostruisce il passato? Evidentemente lo si ricostruisce sempre in funzione del presente, in funzione di quello che sarà il futuro, non è mai un'operazione pura. La storia non è una scienza pura, ammesso che ci siano scienze pure, la storia è una scienza applicata. Tanto è vero che ha sempre molta popolarità nei momenti forti in cui che un paese attraversa. Non so, facciamo l'esempio dell'Italia, l'esempio più ovvio, forse si potrebbe fare quello della vicina Germania o dell'Austria. Quando è che abbiamo studiato fortemente storia? L'abbiamo studiata e insegnata come una disciplina importante nella scuola, una di quelle che quando uno andava male gli si faceva una romanzina a un ragazzo che non studiava la storia, non come si è fatto anche recentissimamente, ma in fondo è una materia secondaria. La si è fatta nel periodo immediatamente post-unitario oppure durante il fascismo. quando nel bene o nel bene e nel male, nel poco bene e nel molto male, fate come credete, pensate quello che volete, ma insomma c'erano dei progetti forti di Stato, progetti forti di società, e si voleva cercare delle giustificazioni, le radici delle giustificazioni di quello che stavamo edificando nel passato, e questo passato poteva essere le libertà medievali per il risorgimento, la potenza romana, ma anche la forza del diritto, le leggi eccetera romane durante il fascismo, in fondo studiare storia, poi gli studiosi di storia, quelli che vengono pagati per studiare storia, che naturalmente hanno anche interesse anche morale, cercano di fare più onestamente possibile il loro mestiere e fanno da catecon, come direbbe San Paolo, alla volontà dei loro imprenditori, che vorrebbero invece che studiassero la storia per un motivo poco puro ma molto più pratico. Vi faccio l'esempio, un esempio banale ma che forse ci sfugge, proprio parlando di metodo. Quando nasce la storiografia moderna? La storiografia moderna nasce soprattutto nella Francia del Re Sole, e nasce attraverso il fatto che il Re Sole, il quale personalmente di storia credo che gli importasse il giusto, cioè quasi nulla, finanziava un sacco di eruditi, molti dei quali erano dei buoni ecclesiastici, i bravi benedettini di Saint-Maur, di Saint-Germain-des-Prés, insomma, di fronte al Café de Demago a Parigi, che studiavano i documenti antichi, e li studiavano filologicamente. Poi questa scienza si è sviluppata, quindi si sono sviluppate anche tutte le scienze parallele, la cronologia, la geografia storica e via discorrendo, la paleografia, la diplomatica. Tutto questo era sicuramente un esercizio di applicazione, di gratuita applicazione di intelligenze che cercavano la verità storica. Come veniva utilizzato dai loro finanziatori, perché questi poveri scrivani poi dovevano mangiare qualche volta al giorno, vestirsi più o meno bene, spidocchiarsi male perché non avevano gli hammam come i turchi, ma insomma facevano il possibile, comprarsi dei profumi perché odoravano in modo orribile, come ci hanno spiegato i moderni studiosi che studiano gli odori. Ma tutte queste cose, quando arrivavano poi alla cancelleria del Re Sole, andavano immediatamente ad alimentare le camere di riunione, perché le camere di riunione erano gruppi di lavoro di buoni giuristi e di qualche militare che, grazie al lavoro degli eruditi negli archivi, venivano a sapere, guarda bello, il conte di Lorena, che si pensa nobile dell'impero, nel 1192 ha prestato giuramento feudale al re di Francia. Bella cosa. Tutto questo, per il diritto del tempo, permette al re di Francia di imporre o comunque di proporre la sua sovranità sopra la Lorena. Carlo V di Lorena, uno dei protagonisti, dei grandi protagonisti del libro del Turco a Vienna, perché era il comandante dell'esercito imperiale, poi c'era l'Obergeneral, che era il re di Polonia, ma il comandante delle truppe imperiali era Carlo V di Lorena, e lui era un duca senza terra, perché la Lorena gliel'aveva presa il re di Francia gliel'aveva presa con i cannoni, con i dragoni, con i cavalleggeri eccetera, ma anche forte dei documenti medievali che gli avevano fornito i bravi storici dell'abbazia di Saint-Maur. Quindi la storia può essere una scienza pura, poi però viene impiegata e spesso viene anche sollecitata per motivi che puri non sono. C'è sempre un uso della storia che sono le regole del gioco che bisogna accettare. Accettarle non vuol dire approvarle, no, vuol dire bisogna tenere distinti i piani, però bisogna avere la consapevolezza di queste cose. E allora si studia un fatto come l'assedio di Vienna. È chiaro che chi comincia a studiarlo si pone un problema civico di fondo. Studio un momento di scontro fra l'Europa cristiana e l'Islam per dimostrare che fu uno scontro di poteri, che non fu uno scontro di religioni, ma per ricordare che fu uno scontro fra religiosi, per ridimensionare una certa polemica politica in corso, dargli un pochino, cercare di raddrizzarla dal punto di vista culturale, possono essere generose illusioni, ingenue illusioni, ma si lavora per questo. Naturalmente, questo per quanto riguarda, direbbero i giuristi, l'approccio ad rem, l'avvicinarsi a questo problema, che nel mio caso degli ultimi 10 anni è stato l'assedio di Vienna nel 683. Quando io poi mi trovo in re, cioè davanti ai documenti che sono montagne disseminati un po' in tutta Europa, scritti un po' in tutte le lingue, quindi ho dovuto chiedere aiuto, l'archivio di Budapest è una cosa da questo punto di vista tremenda, meglio Istanbul perché se non altro è disordinato e quindi ci si pesca un po' a caso, però in fondo cosa emerge? Cosa si chiede uno che fa il mio mestiere? Anzitutto, ma perché hanno fatto una cosa di questo genere? Forse prima di tutto ci si chiede a che cosa ha portato l'assedio di Vienna. Ecco, in ultima analisi, Vienna non è stata presa. Dal contraccolpo della grande paura che l'Europa, in fondo, non tutta nella stessa maniera, certo a Parigi poco, a Vienna molto. A Venezia un pochino, a Roma un pochino. Questo assedio di Vienna aveva fatto paura e generato un contraccolpo. Questo contraccolpo ha portato i cristiani a riconquistare le potenze cristiane, quindi fuori di metafora il Sacro Romano Imperatore, a rioccupare gran parte della penisola balcanica e dal nostro punto di vista a liberarla, a fondare per esempio l'Ungheria moderna. Bene. Ha portato anche a qualcos'altro di più profondo? Sì. Ha portato a sfatare il mito dell'invincibilità del turco. Da allora in poi, gradualmente, si vede che l'atteggiamento dell'Europa nei confronti dei turchi è cominciato a spostarsi. Coi turchi, per carità, si facevano le alleanze, si facevano gli scambi diplomatici, anche prima. Si facevano scambi economici, Venezia viveva di questo, ma un po' tutta l'Europa cristiana viveva dei traffici con l'Oriente, poi c'era naturalmente ormai anche il Nuovo Mondo, quindi in fondo si trattava di un Mediterraneo che era importante ma era ormai decentrato, non siamo più nel Medioevo, non è più il centro del mondo, però certamente era importante, però fino ad allora il turco era stato considerato quasi invincibile, anche se ogni tanto ne aveva buscate anche lui. Da allora in poi diventa, si umanizza per così dire, per un verso si scopre che non è invincibile per nulla, per un altro si scopre sempre di più che si può cominciare a dir bene dei turchi, ad avere simpatia per i turchi, non solo dal punto di vista politologico, perché c'era già un topos medievale che diceva, medievale no, ma 4-500esco di già, che diceva i turchi hanno dei lati positivi, sono disciplinati, sono severi, sono parchi, si accontentano di poco, sono sobri, mentre gli occidentali si danno sempre al bere, eccetera, hanno grandi qualità. Poi il mondo turco è un mondo dove i diversi si rispettano in un certo modo, si può essere cristiani sotto l'impero ottomano, il sultano ha la mano del sultano ha 5 dita, no? Le 5 dita della Hamza, della mano di Fatma, come la chiamiamo noi. Le 5 dita del sultano sono i 5 popoli soggetti al sultano, che sono gli arabi, i turchi, gli armeni, i greci e gli ebrei. Di questi 5 popoli, 2 soli sono musulmani, gli arabi e i turchi. Poi ci sono 2 popoli cristiani, gli armeni e i greci, e poi ci sono gli ebrei, e l'esercito ottomano è un esercito nel quale ci sono i cristiani, ci sono i moldavi, ci sono i valacchi, li usavano principalmente per ragioni logistiche, fare i ponti eccetera, però li usavano, ci sono e combattono benissimo i protestanti ungheresi, protestanti ungheresi sono stati veramente una freccia nel fianco dell'Europa cristiana, e loro combattevano per l'indipendenza dell'Ungheria, combattevano certamente, erano dei buoni cristiani in quanto tale, e potevano restare buoni cristiani perché sapevano bene che come buoni cristiani, luterani o calvinisti, il loro modo di seguire il Vangelo, il turco lo rispettava. Bastava che restassero nell'ambito delle leggi sharaitiche che impediscono la propaganda pubblica del cristianesimo, eccetera, eccetera, ma sono limitazioni che oggi riterremmo intollerabili, ma che allora, rispetto a quello che succedeva nell'Europa cristiana, e gli ungheresi lo sapevano benissimo, se cadiamo sotto l'imperatore con tutti i suoi gesuiti, cioè sotto il Papa, la libertà di cui godiamo sotto il sultano la salutiamo, quindi è proprio come buoni cristiani che noi combattiamo al fianco del sultano. Queste cose io, in quanto cattolico, non le dico volentieri, ma le devo dire perché corrispondono a una realtà storica, altrimenti il conte Imre Thököly, che è ancora oggi un eroe, considerato un eroe nazionale in Ungheria, non lo capisco, e non era certo un cattivo cristiano, era sicuramente un cristiano molto migliore di molti preti e di moltissimi arcivescovi o cardinali. Questa complessità va salvata, la storia è una cosa pulita, però è una storia complessa, per tutte le cose c'è una spiegazione semplice, ed è regolarmente la spiegazione sbagliata. Lo so che questo è un discorso impolitico, perché quando si fa politica bisogna semplificare le cose al massimo, ma appunto, insomma, la dialettica civile dovrebbe nascere dal confronto fra queste cose, no? I politici dovrebbero sapere, loro fanno il loro mestiere, ma che la realtà è molto più complessa di come loro sono costretti e qualche volta indotti a presentare, e gli storici dovrebbero capire che, insomma, la loro verità non è poi una verità che sempre può trionfare come primaria, perché ci sono altre esigenze. Però quando vogliamo cercare di capire come le cose sono veramente andate, bisogna sforzarsi di essere imparziali, non lo si è mai, perché non ci riesce, non è possibile, sarebbe disumano, ma è qui sì. Andare al centro delle cose. Cosa è successo dopo Vienna? Dopo Vienna noi abbiamo avuto, certo, il crescere della Casa d'Austria come grande potenza europea, che è un trend che è andato avanti fino al 1918. Abbiamo avuto anche il crescere di un grande movimento culturale che è stato l'orientalismo. Se non ci fosse stata la sconfitta del turco a Vienna, l'Entführung aus dem Serai, ce lo salutavamo, non l'avremmo mai immaginato. Il sultano buono, il sultano equo, il sultano che perdona a quello che l'ha umiliato soffiandogli la donna amata, non avrebbe mai avuto cittadinanza culturale in Occidente, avrebbe avuto cittadinanza culturale il Bajazet di Rasin, il truce tiranno, non il sultano del Ratto del Serraglio di Mozart. E insieme a quello tutte le tradizioni della grande ammirazione per la vita privata del mondo musulmano. Queste cose non sono delle escrescenze antioccidentali all'interno della cultura occidentale, sono parte integrante dell'essere occidentali. Noi siamo occidentali perché a noi ci piace l'Oriente e ci piace immaginarcelo e ci piace anche rielaborarlo. In nessuna cultura è successo mai una cosa del genere. Questo fa parte dell'eccezione occidentale. La grande cultura cinese, e no, grandissima cultura cinese, è vissuta nel più sovrano disprezzo di tutte le altre culture, nella più sovrana coscienza della propria superiorità, condivisa dal mondo musulmano. Il mondo musulmano ha cominciato a porsi dei problemi su se stesso quando è stato vinto militarmente. Da allora nasce il ripiegamento, questo Sir Bernard Lewis lo spiega bene, anche se ne trae delle conseguenze secondo me non giuste, ma lo spiega molto bene. Da allora è cominciato il ripiegamento dell'Islam, da quando i musulmani si sono accorti che questi occidentali, sporchi, brutti, barbari, mallavati, ignoranti, eccetera, però sapevano fare i cannoni, sapevano fare le vele mobili, sapevano fare le vele e i cannoni meglio dei grandi imperi musulmani, e questo aveva piegato gli imperi musulmani. Siccome, come dice giustamente l'imam Khomeini, l'Islam o è politica o non è nulla, i musulmani hanno capito da allora, anche se poi l'hanno interpretato malamente, che nella barbarie occidentale di questi cristiani, che erano cattivi anche come cristiani, c'era un elemento culturale forte che sfuggiva loro. Guardate che una delle cose più dibattute oggi nel mondo musulmano, fra fondamentalisti e non fondamentalisti, è proprio questo qui, questo problema, il segreto della civiltà occidentale, che continua a sfuggire nonostante l'Islam, la civiltà occidentale, la conosca. Ecco, si chiude qui questa prima parte di questa serata, la seconda sarà necessariamente più breve, ovviamente. Grazie a Franco Cardini, che ha impiegato più di un'ora e mezza per dirci chi ha vinto a Vienna. Non ve l'ho detto. Regalandoci l'applauso, e ovviamente al relatore, regalandoci quindi un modo di concepire il tempo che non ha niente a che fare né con la televisione né con altre barbarie, con qualche eccezione. Poi più o meno neanche ce l'hai detto, cioè un'ora e mezza di attesa per... Non voglio dare una risposta. Detto una cosa implicita, cioè che in realtà, cara Mustafa, l'assedio di Vienna lo fa perché vuol conquistare qualche cosa, portare una grande vittoria al sultano, perché la sua posizione politica è estremamente debole, come parvenu alla corte di Istanbul. Se porta Vienna in regalo all'Islam, al sultano, oppure porta la resa di Vienna in regalo al sultano, le sue azioni crescono infinitamente. Gli è andata male e il sultano gli ha mandato, la notte di Natale, gli ha mandato il famoso laccio che l'ha strangolato, ma sono mica tutte le queste belle restano con. È la frase conclusiva, possiamo sperare. Di questa prima parte. Puoi sperare. Mi permetto questo tono perché, come accennavo all'inizio della serata, Franco Cardini ed io abbiamo una lunga frequentazione, abbiamo scritto, stiamo scrivendo un librino che chiederemo alla dottoressa Trevisan di presentare anche qui a Bolzano, se la dottoressa sarà d'accordo, ma tanto i tempi sono ancora, visto che si lavora con le mail, campacavallo. Però chissà, potrebbe anche essere il 2013 l'anno giusto, anche se no, perché sennò l'editore ci bastona. Ci sono domande da parte? Volevo chiedere, potrebbe dire qualcosa di più del comportamento della Francia in tutta questa, diciamo, sì, questo teatro? Di più nel senso di una battuta, ecco, lei voleva dire, no? Flash, questo signore ti chiede un flash, insomma, ecco, una didascalia. È molto semplice. Cosa anche molto dibattuta. Il re di Francia aiuta il sultano, nel senso che gli manda qualche tecnico, eccetera, lo incoraggia naturalmente con lettere private, eccetera. Però non aiuta poco l'imperatore. Non impedisce ai francesi di recarsi a Vienna assediata, ma nulla in confronto a quello che aveva fatto, per esempio, durante la guerra di Candia. Durante la guerra di Candia c'è veramente un gruppo di un forte reparto, anzi molti reparti francesi che combattono fra 1643 e 1669, che combattono per mantenere Candia ai veneziani, e sono volontari, anche con un tantino di iattanza guascona, no? E no, a Vienna di francesi ce ne ha veramente pochi. Ma quello che veramente fa il re di Francia è questo, praticamente. Lui gioca su due tavoli. Da un lato, nei confronti delle potenze europee, lui le rassicura, cerca di rassicurare le potenze europee sul fatto che il fronte europeo del Reno, della Mosa, della Schelda e della Mosella è un focolaio di disordine continuo. L'imperatore non è in grado di tenere in ordine questa fascia europea che va dal mare del nord fino alle Alpi occidentali e centrali. Il re di Francia sa di essere in grado di mantenere l'ordine e l'ordine cattolico. Allora questo è il messaggio che lui manda alle potenze cattoliche europee. È bene che la Francia si impadronisca di questa fascia del Sacro Romano Impero perché ne ha alcuni diritti feudali, camere di riunione e lavoro degli archivisti, perché è in grado di tenere a bada l'elemento protestante pericoloso, quindi è un discorso che non si può fare al re d'Inghilterra e non si può fare nemmeno a Guglielmo d'Orange, che fra l'altro militava all'altra parte, ma che si può fare a tutte le potenze cattoliche. Nel frattempo, naturalmente, l'imperatore non stia a pensare a quelle cose che possono succedere a Occidente, perché l'Occidente dell'impero nelle mani della Francia sarà ben tutelato. Pensi piuttosto a quello che succede nei Balcani, dove il turco, nemico della croce, addirittura sta per impadronirsi di Vienna, e allora si accusa l'imperatore di essere egoista, si accusa l'imperatore di essere miope, perché l'imperatore si preoccupa della linea del Reno, che non corre nessun pericolo se non quello di essere liberato dai maledetti protestanti, mentre invece il pericolo lo corre nel mondo balcanico. Naturalmente queste cose arrivano anche alla corte di Vienna, perché la corte di Vienna è divisa in due, ora lì lo spiego, cerco di spiegarlo abbastanza bene, qui l'ora è tarda e quindi ve lo dico in due parole, ma praticamente alla corte di Vienna ci sono i partigiani pagati del re di Francia, che cercano di convincere l'imperatore che bisogna resistere contro il turco e bisogna lasciar perdere quello che succede in Occidente, tanto non è importante. Tanto in fondo danno solo guai gli occidentali del Sacro Romano Impero, non vogliono pagare le tasse, se vogliono andare a Corre di Francia se ne vadano, non perdiamo in fondo molto, tanto più che la forza dell'Asburgo sta nei possessi ereditari, su questo sono tutti d'accordo. Però ci sono anche gli altri che sono pagati dal re di Spagna, il quale fra l'altro è un congiunto, oddio congiunti erano tutti, ma è un consanguineo, è l'altro ramo degli Asburgo. Gli spagnoli vogliono invece che l'imperatore lasci perdere i Balcani, certo non vogliono che l'imperatore ceda a Vienna, questo glielo possono chiedere, però gli chiedono di non concentrare la sua attenzione sui Balcani, di impedire invece al re di Francia di occupare l'Occidente del Sacro Romano Impero, perché insieme all'Occidente del Sacro Romano Impero c'è la Franca Contea, c'è la Fiandra, cioè sono quei territori asburgici che però spettano al re di Spagna e il re solo li sta mangiando anche quelli. Quindi c'è questa guerra diplomatica in cui Leopoldo I si trova a un certo punto veramente invischiato, preso fra due fuochi, fra una parte dei suoi consiglieri che fanno il gioco del re di Francia e una parte dei suoi consiglieri che invece fanno il gioco del re di Spagna. Grazie. E la domanda successiva, per favore, lei, prego. Due cose. Prego. Una, desidero accertarmi di un'informazione. Che una parte dell'esercito del re polacco era fatta da mongoli, da musulmani. Sì, c'era un po' di tartari dei Crimea che stavano contro il Khan di Crimea e quindi stavano così. Vero. La seconda cosa invece riguardo una sagra che viene celebrata ogni anno a Moena, qui in Trentino, che viene chiamata la festa della Turchia. E in questo paesino qua di montagna c'è un quartiere, un rione, scusate, di nome Turchia. E al centro del rione c'è una fontana, e la fontana è dove sgorga l'acqua, c'è un busto di un gianizzero turco con un turbante. Beh, come, come la Fürkenbrunn, la mezzaluna. Mi pare. Si dice la storia, una delle interpretazioni più accreditate, che questa rione della Turchia è stata regalata dalla gente del paese quando hanno colto di turchi fuggiaschi, soldati sbandati della sedia di Vienna. E sono finiti in quella zona lì e la gente li ha regalati, l'ha donato quel pezzo di terra e poi è stata costruita questo quartiere. Ogni anno questo rione viene allestito con la bandiera turca attuale. C'è una processione dove c'è un sultano e quindi una marea di gente vestita da turca. E quindi è un episodio che volevo raccontare perché è legato alla serie di Vienna, che ha lasciato quindi degli effetti collaterali, sembra, no? In una valle del Trentino. Non so, questo servirà per una appendice futura del libro, non lo so. E io che mi sentivo. Grazie. Che mi sentivo grande cultore di memorie tradizionali perché il 18 agosto vado a Colmons, ma pensi un po'. Dunque, no, è possibile, è tutto possibile naturalmente. Bisogna tenere presente che rientra un po' in queste cose che si chiamano le Türkerie, che fanno parte dell'orientalismo. E d'altra parte, non so, ecco, chi conosce Dresda, cioè probabilmente molti di voi sanno che i duchi di Sassonia hanno avuto per molti anni una guardia giannizzera, che naturalmente erano sassoni, però erano sassoni che vestivano alla turca, avevano gli stendardi con la mezzaluna, poi sarebbe tutto un discorso a far sulla mezzaluna, non solo sul kiffel, che poi è una traduzione tedesca della parola hilal araba, che è la mezzaluna appunto passata attraverso il turco. No, ma è possibilissimo naturalmente, come è possibile che invece si tratti di tutt'altra cosa, cioè che si tratti invece piuttosto di gente che è tornata al paese dopo aver fatto la guerra contro i turchi, che abbia portato qualche trofeo preso ai turchi e che poi la cosa si sia, come è successo altrove, perfino in Toscana, si sia stravolta nel suo opposto, no? Quindi arrivano spoglie dei turchi prese dai cristiani, poi nasce la leggenda invece che sono arrivati dei veri e propri turchi, poi oggi naturalmente è evidente che i turchi di oggi si impadroniscono di queste cose perché è un modo per radicarsi e nello stesso tempo anche un modo per rivendicare di far parte un pochino di questo tessuto anche popolare, ecco. La prego. Poi. Sì, io volevo ricondurre magari la questione a una cosa un po' più recente, no? Approfittando della presenza della consigliera Flozza. Lei diceva che questo libro è nato dal fatto dell'11 settembre, dal fatto che con tutta l'ubriacatura che abbiamo avuto sulle polemiche, no? Sull'aggressione del mondo musulmano al mondo occidentale, lei diceva con questo libro ha cercato un po' di stemperare questa atmosfera, no? Sostanzialmente. Ecco, quindi penso che lei una certa lezione la tiri fuori questo libro. Ecco, mi chiedo che lezione, se è possibile, si possa trarre anche in un altro ambito dove le memorie condivise sono così diverse, no? Cioè noi abbiamo una popolazione di tedesca che ha vissuto un fascismo che impediva alla popolazione tedesca di parlare la propria lingua. Ci sono stati degli accordi Mussolini-Hitler per trasferire la popolazione tedesca fuori di qua, sulla testa del sudtirolese locale, italiano o tedesco che fosse. C'è anche l'opinione di lingua tedesca che la liberazione vera in Alto Adige sia stata il 9 settembre del 43, per noi è quella del 25 aprile, per esempio, no? Allora, una cosa è parlare della sede di Vienna che è finito tanto tempo fa, ma che lezione si può trarre, io dico, per le popolazioni che vivono, no? Memorie così recenti e così disgreganti in un certo senso, no? Io personalmente ne trago un'unica morale, cioè che chi governava a quell'epoca se ne fregava della popolazione, di quello che pensava la popolazione, così come credo che chi guidava gli eserciti nel 1683 non gli importava un bel niente di quanta gente moriva. E quindi l'interpretazione che trago è che finché noi non ci riappropriamo come popolazione del nostro destino avremo sempre qualche politico che decide sulla nostra testa se stare dentro l'Europa, se uscirne, se... Cioè, insomma, però quello è la sua opinione. Ma guardi, è molto complicato, è sempre molto complicato e forse non è nemmeno giusto, però è giusto porsi il problema. Non è giusto nemmeno fare il processo alle intenzioni e farle in modo malevolo, ecco, io sono convinto che anche in politica ci sono delle forze portate avanti da politici che in buona fede ritengono di fare l'interesse, se non proprio di tutti, perché l'interesse di tutti è difficile farlo, almeno di una parte, insomma, la fascistizzazione, che era un'italianizzazione coatta del Trentino, aveva purtroppo la sua logica all'interno del tentativo di nazionalizzazione delle masse fasciste. Certamente il problema è che si traduceva in una forte repressione, però bisogna tenere presente che questo tipo di repressione era il prezzo da pagare per il mondo italiano, il quale aveva scelto una strada profondamente diversa dalle sue vocazioni storiche profonde. L'Italia, come la Germania, è un grande paese a struttura policentrica, ha una storia che è una storia policentrica. La Germania l'ha rispettata questa storia nelle sue vicende recenti. In fondo perfino Hitler, quando, anche se lui non lo diceva perché era anti-giacobino e odiava la rivoluzione francese, però quando cancella i Länder e li sostituisce con i Gaue, fa un'operazione giacobina, lo sa benissimo, il modello dei Gaue, anche se, va bene, poi c'era l'ideologia nazista che sparlava sulle radici profonde dei popoli germanici, no, i Gaue sono esemplificati sui dipartimenti francesi, c'è poco da fare, e lui lo sapeva bene, però naturalmente sapeva altrettanto bene che ci sono delle radici profonde per cui il mondo tedesco è legato alle sue tradizioni. Noi abbiamo una sola parola per dire patria, e i tedeschi ne hanno almeno tre, che sono Heimat, Vaterland e Großvaterland, e noi non l'abbiamo mai distinte del tutto, ma non l'abbiamo mai distinte del tutto perché abbiamo accettato il governo, il sistema, il modello giacobino-napoleonico, che era il modello della vittoria dello Stato nazionale. Poi lo Stato nazionale, e lo sappiamo bene, non si costituisce sulla base della grande ricostruzione di una nazione che c'è già, ma si costituisce purtroppo, e questa è la storia, sulla base della repressione delle minoranze. Perché ogni Stato nazionale ha le sue minoranze interne che vengono in generale cancellate. Noi per pudore non attacchiamo mai la sorella Latina, ma la Repubblica Francese, non il Primo e il Secondo Impero, la Repubblica Francese, liberale e democratica, è stata di una durezza ferocissima nei confronti delle minoranze bretoni, delle minoranze provenzali, delle minoranze corse. Le ha veramente trattate in un modo violentissimo, e si è steso su questo una coltre di silenzio, perché in Francia tutto questo è un tabù, anche se naturalmente ormai se ne parla. Gli italiani conoscono poco la storia anche della vicina Francia, ma io credo che in realtà la storicizzazione, io non ci credo alla religione della storia, ci mancherebbe altro, faccio questo mestiere, è l'unico che più o meno so fare. Però credo, ecco, che il principio di cercare di storicizzare al massimo i problemi, cioè di guardarli con un minimo di lontananza, anche se molto spesso è difficile perché ci siamo nel mezzo, non possiamo trattare la guerra in Afghanistan come la seconda guerra punica, della guerra in Afghanistan ne stiamo ancora subendo le conseguenze, però bisogna sforzarsi il più possibile di guardarli in modo distaccato. Sui politici poi io in molti casi fenomenologicamente sono costretto a dargli ragione, ma non c'è bisogno di pensare che il gran visire avesse un gran disprezzo per il suo esercito, e poi non era nemmeno, tutto sommato, nemmeno troppo vero, e nemmeno molti condottieri cristiani, ecco, un personaggio come il principe Eugenio di Savoia, per esempio, è un personaggio che ha un grandissimo rispetto per i suoi soldati e anche per le popolazioni, addirittura per le popolazioni assoggettate. La disgrazia del principe Eugenio di Savoia è che si è trovato, per esempio, già in gioventù a dover lavorare insieme con un bestione, con un criminale di guerra, con un mascalzone come il principe Antonio Carafa. Però il principe Antonio Carafa è stato riempito di onori dall'impero, perché il principe Antonio Carafa ha regalato letteralmente il sud dell'Ungheria in ginocchio all'imperatore. Purtroppo le cose, la storia anche di questi aspetti poco commendevoli, diciamo così. Grazie. Chi vuole intervenire dopo queste tre molto stimolanti domande, di cui vi ringrazio, vi ringraziamo. Prego. Solo chiedere, mi pare di aver capito che per il gran visir era molto importante ottenere una vittoria tramite questa campagna di conquista, e lei diceva che conosceva tante situazioni a cui sarebbe andato incontro. Come mai però le ha gestite con, si direbbe quasi, con questa leggerezza, se era anche conscio dell'importanza, tanto è vero, come ha detto lei, che poi per non aver giocato bene le sue carte ha dovuto morire, o è dovuto morire. È una domanda che mi sono posto anch'io. Sicuramente cara Mustafa vuole portare a casa un grande successo, e non sa nemmeno lui bene se sarà la conquista pacifica di Vienna, la conquista diplomatica di una pace concertata sotto le mura di Vienna senza toccare Vienna. Comunque, ecco, lui mira una di queste due cose, e certamente non lo può dire. Non lo dice al sultano, e non lo dice nemmeno ai suoi collaboratori, nemmeno a quelli più stretti, con i quali aveva pessimi rapporti, col Khan di Crimea e col Pascià di Buda, che fra l'altro erano i due capi militari migliori, anche umanamente fra l'altro. E, però c'è una cosa secondo me rivelatrice di cara Mustafa. Quando il 12 settembre, questa è una cosa che gli austriaci conoscono tutti, eccetera, il 12 settembre all'alba arrivano le truppe polacco-lorenesi, soprattutto sono polacco-lorenesi, e scendono dal Kahlenberg, che poi adesso è lo Josefberg, perché hanno cambiato i nomi, un pasticcio tremendo che io cerco sempre di ricordarmene e me ne scordo sempre. Allora, quando arrivano questi, e c'è un cronista turco che dice una cosa impressionante, sono come una colata di lava che scende da queste colline, che sono le colline appunto che circondano Vienna da ovest, il Gran Visir tenta un ultimo attacco a Vienna. Come se, cioè, invece a questo punto di rimediare alla sua grossa bestialità, di non avere circunvallato il campo, insomma, corresse almeno ai ripari, lui cerca disperatamente in extremis di entrare dentro Vienna, e a quel punto cosa sarebbe successo? Sarebbe successo il paradosso, l'assediante sarebbe diventato assediato, avrebbero preso Vienna, si sarebbero infilati dentro e i cristiani tutti intorno, e sarebbe arrivato un secondo assedio, non saprei quanto sarebbe durato, forse poco, eccetera. Perché cara Mustafa fa una cosa di questo genere? Io credo che fino all'ultimo momento cara Mustafa sia stato convinto e illuso di essere, di avere il massimo della sua potenza militare all'interno di Vienna. Questa mia convinzione purtroppo non è supportata da documenti, e probabilmente non lo sarà mai, per una ragione. Io me la sono fatta per analogia studiando un pochino l'assedio di Madrid da parte delle truppe nazionali nel 1939. C'è una giornalista americana che intervista il comandante generale delle truppe nazionaliste alla vigilia della presa di Madrid, che era il generale Mola, massone, passato poi al cattolicesimo, lui personalmente era un navarrese, quindi era anche una persona malvista da alcune altre parti dello schieramento nazionalista, che era molto frastagliato, non come quello repubblicano, ma anche lui non scherzava. E la giornalista gli dice: generale, ma secondo lei ci sono quattro colonne dell'esercito nazionalista che stanno convergendo su Madrid. La giornalista non osa porre un problema, una domanda al generale Mola, che sarebbe stata: lei certamente non vuole che a Madrid entri il generale Varela, che è monarchico, che è carlista. Lei certamente non vuole che a Madrid entri il generale Yagüe, che è falangista. E allora lei su quale delle altre due colonne conta? Sulla sua o su quella di Franco? Perché il comandante generale delle operazioni è Mola e non è Franco. Generale Mola gli risponde: Madrid sarà conquistata dalla quinta colonna. C'è un bellissimo racconto di Ernest Hemingway sulla quinta colonna, no? Che sono i madrileni, e per infinite ragioni, sono contro la Repubblica, sono a favore di Franco, sono a favore dei nazionalisti, anche se magari con Franco personalmente ce l'hanno, ma che comunque al momento opportuno insorgeranno. E in effetti, come sempre succede, insorgono, sono in gran parte civili, hanno armi leggere, insorgono all'ultimo momento, ma insorgono e sparano dai tetti. Dopodiché cosa succede? Succede quello che non è successo a Vienna, per mia disgrazia, perché a Vienna i nazionalisti c'entrano e allora questa quinta colonna di cui parlava il generale Mola, dei nazionalisti che stavano in Madrid assediata e che stavano nascosta, escono tutti alla scoperta, contenti naturalmente, felici, fanno festa, bandiere e altre cose, e ovviamente diventano moltissimi, per il principio ben spiegato da Indro Montanelli, per cui si va sempre in aiuto del vincitore, no? Allora a Madrid la quinta colonna è diventata veramente una cosa impressionante e i giornali dell'Italia fascista, i giornali della Germania nazionalsocialista sottolineano queste cose e dicono: vedete, Madrid era tenuta in scacco dalla ferocia delle truppe repubblicane perché la maggior parte dei madrileni aspettava la liberazione dalle parte delle truppe nazionali, sono scesi tutti in piazza. A Vienna Kara Mustafa non c'è entrato e quindi la sua quinta colonna si è volatilizzata e quei pochi che avevano magari dei documenti compromettenti se li sono mangiati, se li sono bruciati, e il risultato è stato che io, che non c'entro nulla, sono rimasto a piedi come storico, perché questa mia profonda convinzione non la potrò mai dimostrare. Io so che le cose sono andate così, ecco, sono come Pasolini davanti a Andreotti, ecco. Io lo so che sono andate così, ma non lo potrò mai dimostrare. Ecco, vedi il metodo, c'era lei, siamo nelle sue mani, attenzione a che cosa chiede, perché sennò... Nella vicenda di Vienna, lo zar ha avuto qualche ruolo o è rimasto fuori? No, non è proprio rimasto fuori, perché lui si è preparato per dare l'assalto poi ai tartari dell'Azov e poi c'è stata tutta la guerra che è finita nel 1708, l'ha portato anche ad avere dei problemi ovviamente per la Polonia, perché... Quando lo zar va contro i tartari, tutti sanno che prende la Podolia e naturalmente il re di Polonia non è troppo contento che lo zar prenda la Podolia, ecco. Quindi si è mosso, però non è intervenuto direttamente, ha mandato degli aiuti in denaro, non sono arrivati i combattenti russi a Vienna, però c'erano i cosacchi, Podolia, Ucraina e Cuba e Kuban che stavano nell'esercito polacco, quindi in qualche modo Pietro c'è entrato, ecco, molto diciamo così, molto marginalmente. I documenti ci sono anche molti, naturalmente congratulazioni, regali reciproci, le cose si fanno diplomaticamente. Possiamo possiamo probabilmente allora chiudere qui questa serata con Franco Cardini, con il suo ritorno a Vienna. Franco ed io ringraziamo molto la dottoressa Trevisan, la padrona di casa, moltissimo tutti voi, vi ringrazio e vi prego di salutare il professor Cardini con un applauso. Grazie.